Gli uomini di Efraim si radunarono in armi, poi varcarono il Giordano in direzione di Safon e dissero a Jefte: «Perché hai mosso guerra agli Ammoniti senza chiamarci in tuo aiuto? Siamo decisi a bruciare la tua casa con te dentro». Jefte rispose loro: «Io e il mio popolo, duramente oppressi dagli Ammoniti, eravamo in una situazione tanto grave che chiesi il vostro aiuto, ma non mi avete salvato dalle loro mani. Allora, resomi conto che non c'era nessuno che mi avrebbe salvato, mi buttai allo sbaraglio, assalendo gli Ammoniti. Il Signore li ha dati in mia mano. Che motivo avete dunque oggi per muovermi guerra?» Jefte, chiamati a raccolta tutti gli uomini del Galaad, dette battaglia ad Efraim, e i Galaaditi sconfissero quelli di Efraim, che li avevano assaliti perché li consideravano loro ribelli, gente che apparteneva ad Efraim e a Manasse. I Galaaditi occuparono i guadi del Giordano, attraverso i quali si poteva raggiungere il territorio di Efraim. Quando i fuggiaschi dell'esercito efraimita chiedevano di passare, i Galaaditi domandavano loro, uno per uno, se erano efraimiti, e quelli rispondevano di no. Ma i Galaaditi imponevano loro di dire Shibboleth, ed essi rispondevano Sibboleth, perché non sapevano pronunciare correttamente la parola. Allora li afferravano e li sgozzavano sui guadi del Giordano. Degli efraimiti in quell'occasione ne morirono 42.000. Jefte fu giudice in Israele per 6 anni. Poi Jefte il Galaadita morì e fu sepolto nella sua città, nel Galaad. Dopo di lui fu giudice in Israele Ibsan di Betlemme, che aveva 30 figli e 30 figlie. Queste mandò spose fuori della sua gente, e da fuori fece venire 30 ragazze per darle spose ai suoi figli. Egli fu giudice in Israele per 7 anni. Quando Ibsan morì, fu sepolto in Betlemme. Dopo di lui venne lo zabulonita Elon, il quale fu giudice in Israele per 10 anni. Quando lo zabulonita Elon morì, fu sepolto in Aialon, nel territorio di Zabulon. Dopo di lui fu giudice in Israele Abdon, figlio di Illel, della città di Piraton. Aveva 40 figli e 30 nipoti, che cavalcavano 70 asini. Egli fu giudice in Israele per 8 anni. Quando Abdon, figlio di Illel, della città di Piraton, morì, fu sepolto in Piraton, nel territorio di Efraim, sul monte dell'Amalecita.